Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ciascuno di noi porterà quel che può portare. La grinta la porterà Matteo Renzi, la determinazione la porterà Giorgia Meloni. Avete sentito che lapsus pazzesco questo di Berlusconi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, intervistato a Porta, questa è un'anticipazione dell'intervista che ci sarà questa sera, che parla dell'unità del centrodestra dopo la manifestazione che c'è stata a Bologna, manifestazione della Lega a cui ha partecipato Berlusconi, e dice a portare la grinta la porterà Matteo Renzi. Ha sbagliato Matteo, perché si trattava invece di Matteo Salvini, però evidentemente chissà cosa c'è nell'inconscio di Berlusconi. Non è che indagheremo più di tanto, però siccome ha fatto varie dichiarazioni, poi appunto il resto dell'intervista ci sarà stasera Porta a Porta, vi chiedo questo: tra le dichiarazioni che ha fatto, ha detto con questa legge elettorale, cioè con l'Italicum, al ballottaggio vince il PD, il PD e il Movimento 5 Stelle, e i sondaggi vincono i 5 Stelle, ed è un pericolo grave per gli italiani e per l'Italia. Quindi Berlusconi ritiene che se vincessero, come lui pensa, i 5 Stelle con l'Italicum alle prossime elezioni, sarebbe un pericolo per gli italiani e per l'Italia. Voi cosa ne pensate di questa affermazione? Come sempre, lo sapete, potete intervenire sia direttamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure inviando SMS, messaggi al 349-238-6666, 349-238-6666 per i messaggi. Cosa ne pensate? Dice Berlusconi, molto preoccupato nel caso di vittoria del Movimento 5 Stelle, dice pericoloso per l'Italia e per gli italiani. Poi molte altre dichiarazioni, ne parleremo, ma parleremo soprattutto poi domani nel bilancio della politica della settimana. Invece ci occuperemo anche del vertice, dei due vertici che ci sono stati sull'immigrazione a Malta e poi a Bruxelles. Beh, la conclusione è che il Presidente della Commissione Europea, Juncker, diciamo forse un po' sconfortato, ha detto se si va di questo passo con i ricollocamenti finiranno nel 2101, quindi la vede un po' grigia, insomma. Poi ci occuperemo anche del delitto di Ancona con la criminologa Bruzzone, perché ci sono delle novità. E poi c'è anche ci sono i dati Istat sul matrimonio, un matrimonio in crisi in Italia. Sempre meno ci si sposa e sempre più lo si fa civilmente, cioè non in chiesa. Anche su questo, se volete, potete dire il perché e il per come. Noi faremo poi un'analisi sociologica con una notissima sociologa. Quindi vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, i messaggi al 349-238-6666. Andiamo con la giornata, la sintesi di questa giornata. De Luca indagato, lui scarica il suo braccio destro, trasferite alla giudice che avrebbe agevolato il governatore. Nelle intercettazioni il marito di lei dice: se io non avrò la carica, De Luca perderà la regione. Terrorismo, progettava attentati in Europa, la cellula jihadista sgominata dal blitz antiterrorismo partito dall'Italia. Berlusconi a Porta, Renzi mi ha tradito, dice: nel patto del Nazareno c'era la modifica alla legge Severino. La replica di Renzi: mai fatta questa promessa, è una barzelletta che non fa ridere, si confonde con l'altro Matteo. Migranti, il presidente della Commissione Europea Juncker lancia un monito: se si continua così saranno redistribuiti a fine secolo. Libano, l'ISIS ha rivendicato con un comunicato gli attentati di Beirut in cui sono morte 37 persone. Il delitto di Ancona, secondo la GIP, contro la madre da parte del 18enne, c'è stata una vera e propria esecuzione, uccisa da un colpo alla testa quando era già a terra. Il giallo dell'imprenditore scomparso a Brescia, Giuseppe Gherardini, non sarebbe morto per cause naturali, è l'ipotesi della procura in attesa dell'accertamento sul corpo estraneo trovato nello stomaco dell'operaio. Messina, indagati 23 consiglieri comunali, intascavano il gettone senza partecipare ai lavori. La società che cambia nei dati Istat, calano sensibilmente i matrimoni e ci si sposa sempre meno in chiesa. Doping, la Federatletica russa ammette alcune delle accuse contestate dalla commissione dell'agenzia mondiale antidoping. Avete sentito un sacco di notizie, ma partiamo da quella che rimane, quella notizia sempre un po' in cima alla classifica: il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca indagato per corruzione per induzione, cioè sarebbe stato beneficiato da una sentenza favorevole in cambio di favori, questa è l'accusa. Lui intanto oggi ha scaricato il suo braccio destro, intanto è stata trasferita la giudice Scognamiglio che avrebbe agevolato il governatore, e nelle intercettazioni ambientali si sente il marito di lei che dice: se non avrò la carica, De Luca perderà la regione. Tra poco cercheremo di fare un po' di chiarezza in questa vicenda veramente intricata. Quanto ne avete capito? Mi raccomando, concentrazione dopo. Terrorismo, una cellula terroristica tra Norvegia, Gran Bretagna, Svizzera e Italia è stata smantellata con un maxi blitz internazionale. 17 persone, 16 curdi e un kosovaro sono state arrestate. Nelle carte dell'inchiesta i loro piani. È necessario che si versi sangue, noi siamo pronti al martirio. Progettava attentati pure in Europa, la cellula terroristica individuata in più paesi, compresa l'Italia, dove avevano base a Merano. La loro guerra santa, i 17 arrestati in un blitz internazionale, la pianificavano mandando nuovi jihadisti a combattere per il califfato, ma erano pronti a lanciarla anche al di fuori delle trincee del Medio Oriente per vendicare l'arresto in Norvegia del capo, il Mullah Krekar, uno dei fondatori del gruppo Ansar al-Islam. Per questo pensavano ad attacchi contro l'ambasciata inglese ad Oslo, in Iran o a Baghdad, parlavano di azioni in Olanda, ma non escludevano pure sequestri di giornalisti. Nessun piano sull'Italia, rassicura il comandante del ROS, Giuseppe Governale. Degli attentati anche in Europa e non in Italia potevano coinvolgere rappresentanti diplomatici norvegesi e anche inglesi per ottenere la liberazione del loro capo. Via chat vagheggiava la costituzione di uno Stato islamico in Kurdistan, a questa cellula del movimento della montagna, il Rawti Shaks, e a questo venivano indottrinati anche negli incontri segreti a Merano, divenuta crocevia di jihadisti. Almeno sei quelli partiti dall'Italia verso la Siria, uno dei quali pure è rientrato, ma altri lì invece sono morti. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi in Libano l'ISIS ha rivendicato con un comunicato gli attentati di Beirut, in cui sono morte oggi 37 persone, questo lo riferisce il SITE, che è il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Parliamo adesso di migranti. Il presidente della Commissione europea, Juncker, al termine del vertice di due giorni con i leader africani a Malta e del vertice del Consiglio straordinario dell'Unione europea, lancia un monito: se si continua così saranno redistribuiti i migranti a fine secolo. Sembra più ottimista Renzi. Oggi l'Unione Europea comunque si prende su di sé, con un esborso significativo, il tema di un rinnovato rapporto tra Europa e Africa. Io vedo un bicchiere che è molto più che mezzo pieno, perché uno, l'Italia non è più sola sulla questione dei rifugiati, due, l'Africa è una priorità, non è l'unica naturalmente. Di fronte a questo scenario finalmente si capisce che non si può andare avanti con risposte spot, quindi occorre una strategia molto molto seria, molto rigorosa, però l'Italia c'è con tutta la sua solidità, con tutta la sua forza, e io credo che questo vertice sia un successo. E poi la politica italiana, quindi da Renzi. Berlusconi questa sera, vi dicevo, a Porta a Porta, le anticipazioni, un pezzo che ho fatto sentire. Renzi mi ha tradito, dice Berlusconi, nel patto del Nazareno c'era la modifica alla legge Severino, quella che poi, in base alla quale lui è stato poi sospeso dalle sue cariche politiche parlamentari. Renzi risponde: mai promesso a Berlusconi la modifica della legge Severino, una barzelletta che non fa ridere, si confonde con l'altro Matteo, che è abbastanza, diciamo, a fagiolo cade, visto che ha fatto questo lapsus Berlusconi parlando della grinta che nel centrodestra porterà Matteo Renzi, invece era Matteo Salvini. E a proposito dell'unità del centrodestra, dopo la sua partecipazione alla manifestazione della Lega a Bologna, Berlusconi dice così: molto importante che il centrodestra si sia ricompattato, e questo ricompattamento significa che l'opposizione in Parlamento la faremo insieme. Nel corso del tempo si troverà anche il nuovo leader del centrodestra da presentare come candidato alla presidenza del Consiglio. Vedo intanto moltissimi vostri messaggi che stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia con gli sms al 349-238-6666. A proposito, fra le altre dichiarazioni, di l'altra cosa che ha detto Berlusconi, che se con l'Italicum ci sarà il ballottaggio PD Movimento 5 Stelle, vinceranno i 5 Stelle, dice, sarebbe un pericolo per l'Italia e per gli italiani. Ci sono molti messaggi pro e molti invece contro, poi ne renderò conto di diversi. La cronaca, il delitto di Ancona, emergono nuovi dettagli dell'autopsia della madre della sedicenne uccisa dal fidanzato diciottenne Antonio Tagliata. Secondo la GIP, contro la madre da parte del diciottenne c'è stata una vera e propria esecuzione, è stata uccisa da un colpo alla testa quando era già a terra. Poi vi dicevo, ne parliamo con una nota criminologa. E ci sono anche sviluppi sul giallo dell'imprenditore scomparso a Brescia, Giuseppe Ghirardini, l'operaio che era l'ultimo che l'aveva visto, che poi è stato trovato morto. Non sarebbe deceduto per cause naturali, questa è l'ipotesi della procura, in attesa dell'accertamento sul corpo estraneo che è stato trovato nello stomaco dell'operaio. È stato effettuato in giornata da RIS di Parma questo corpo estraneo trovato nello stomaco dell'operaio della Bozzoli di Marcheno, l'azienda in provincia del capoluogo, da dove l'8 ottobre scorso è scomparso l'imprenditore Mario Bozzoli. Da Brescia a Messina, obbligo di firma per 12 consiglieri di vari partiti e liste civiche. Cosa facevano? Intascavano il gettone delle commissioni senza partecipare. Mi dispiace, ho un dolore. Ognuno si difenderà, come è giusto. Non sto condannando nessuno, però il sistema di fare così è chiaro che lo dobbiamo evitare. Dobbiamo guadagnarci il pane, come si dice, per quello però che fai, non per una cosa che non fai. Parla così il sindaco di Messina, Renato Acorinti, dopo la notizia che oltre la metà dei suoi consiglieri comunali, 23 su 40, sono stati indagati nell'ambito di un'inchiesta ribattezzata Gettonopoli. In particolare, per 12 di loro, il GIP ha emesso la misura cautelare della firma davanti ai vigili prima e dopo i lavori consigliari. Sono ritenuti a vario titolo responsabili di truffa aggravata, falso ideologico in atti pubblici e abuso d'ufficio. Secondo la Digos, che tra il 2014 e il 2015 ha condotto le indagini con telecamere piazzate dentro il comune di Messina, i consiglieri indagati entravano a Palazzo Zanca, firmavano la presenza alle sedute delle commissioni consigliari e poi andavano via senza attendere l'inizio dei lavori o pochi minuti dopo. Il tutto per ottenere il gettone di presenza e raggiungere così l'indennità massima aggiuntiva di 2.184 euro al mese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo a un altro tipo di frode, quella legata all'olio. Non c'è solo il reato, appunto, di frode in commercio contestato alle 7 grandi aziende produttrici di olio. Oltre a quella di frode in commercio, spunta anche una nuova ipotesi di reato nell'inchiesta torinese sul falso olio extravergine, è quella di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. A causa della maggior gravità del nuovo reato contestato, che prevede fino a 2 anni di carcere, il procuratore capo di Torino, Spataro, ha fatto sapere che la competenza dovrà ora passare alle procure dei luoghi di produzione degli oli. Per questo è stato disposto il trasferimento dell'inchiesta a Firenze, Genova, Spoleto e Velletri. Nel frattempo, la multinazionale spagnola, che possiede alcuni dei marchi finiti al centro delle indagini, Bertolli, Carapelli e Sasso, con una nota oggi ha respinto le accuse ed ha assicurato che i suoi oli extravergine rispettano norme e standard di qualità. Alcune catene di supermercati hanno comunque deciso di ritirare dai loro scaffali i prodotti coinvolti nella vicenda. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi ci sono i dati dell'Istat sul matrimonio, che è sempre più in crisi in Italia. Ci si sposa sempre meno e sempre più tardi, ma l'ultima novità è l'ormai prossimo sorpasso tra matrimonio civile e matrimonio religioso. Ne parleremo poi più tardi in modo approfondito. Per chiudere, anche una notizia che riguarda l'accusa di doping alla Russia. La Federazione di Atletica Leggera Russa ammette alcune delle accuse contestate dalla Commissione dell'Agenzia Mondiale Antidoping. Noi siamo d'accordo con alcune accuse nei nostri confronti, su altre no, e qualcosa non è più attuale perché è già stato corretto da tempo, così ha detto il presidente ad interim della Federazione di Atletica Leggera Russa. Cosa dite invece voi a proposito di una dichiarazione di Berlusconi, che poi si sentirà più tardi a Porta a Porta, che ha detto con questa legge elettorale con l'Italicum ci sarà il ballottaggio probabilmente tra PD e Movimento 5 Stelle, se vincesse il Movimento 5 Stelle sarebbe un pericolo per l'Italia e per gli italiani. Mario da Prato dice 5 Stelle è pericoloso per gli italiani, sì, per quelli che rubano un grave pericolo. Poi un altro sms al 349-238-6666. Per una volta Berlusconi tocca dare ragione. Nei suoi deliri ha detto una cosa giusta. Con i grillini al governo l'Italia sprofonderebbe definitivamente nel ridicolo. Sandro da Udine, lui e tutta la destra e sinistra, il pericolo per gli italiani da ormai 70 anni. Poi sulla pagina Facebook, mi giro un po' di qua, un po' di là, Ilaria scrive: il punto non è pentastellato, il punto è che è una legge malfatta, cioè l'Italicum. Rosana dice: per loro è sicuramente un pericolo, viva i 5 Stelle sempre. Giuliana scrive: quando provi l'inferno, tutto il resto è paradiso, per Joe è soltanto una questione di marketing. E poi Paolo Mario dice: se ci siamo sorbiti Berlusconi senza batter ciglio, i 5 Stelle non turberanno i sogni di nessuno. Viabilità, e tra poco ci ritroviamo qui. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco parleremo, cercheremo di fare un po' di chiarezza su questa vicenda relativa all'inchiesta in cui è indagato Vincenzo De Luca, perché è un po' poco chiara, è molto intricata, poi ci sono delle novità anche che sono uscite in serata. Però volevo leggere ancora qualche vostro messaggio mentre continuate a scrivere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 le vostre riflessioni sulla dichiarazione di Berlusconi, che dice se vincessero i 5 Stelle in Italia sarebbe un pericolo per gli italiani. E poi Gianluca da Crema scrive: se Berlusconi teme i 5 Stelle Stelle, è segno che sono sulla buona strada. Speriamo che vincano. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Elena dice: penso che una volta che dovesse provare a fare il nonno sicuramente apprezzerebbe la scelta. Davide: sì, perché se vince il PD o Forza Italia invece stiamo messi meglio. Così scrive. E vi ricordo adesso, se avete acceso la radio diciamo un po' più tardi del previsto, quali sono le notizie più importanti della giornata. Scogna Miglio trasferita, la giudice che avrebbe favorito De Luca, ma è giallo su un'intercettazione di cui parleremo tra poco. Sono venute fuori varie intercettazioni e poi una rete guidata dal mullah Krekar, volevano colpire in Europa, c'è stato un blitz antiterrorismo che è partito dall'Italia. E poi l'Ungheria che sfida Berlino, non riprenderemo i profughi, ci sono stati due vertici, vedremo poi cosa sull'immigrazione, cosa davvero è emerso di positivo o meno da questi due vertici. Poi per quanto riguarda la manovra, Renzi dice nessun problema con l'Unione Europea, c'è cioè rispetto delle regole. Berlusconi nel Nazareno, il patto Nazareno c'era la modifica Severino, ma Renzi lo smentisce, dice è un bugiardo e confonde Matteo, cioè confonde me con Salvini. E poi a 6 mesi dai fatti, 10 arresti per il 1° maggio a Milano nella manifestazione che c'era stata anti-Expo. E poi doping, la Federazione Russa ammette alcune delle accuse. La vicenda degli scontrini non era la ragione per cui chiedevamo le dimissioni di Marino, era l'ultimo di una serie interminabile di errori, l'ho detto 25 volte, credo anche a voi, e potete recuperare. De Luca, c'è una vicenda su cui sta indagando la magistratura, dai tratti ancora abbastanza evidentemente oscuri, aspettiamo di capire con fiducia quello che uscirà dalle carte e valuteremo. Effettivamente dai tratti abbastanza ancora oscuri, lo dice Orfini, presidente del PD, che è commissario del Partito Democratico a Roma, ha effettivamente molti tratti oscuri questa vicenda, che è quella dell'inchiesta su Vincenzo De Luca, indagato dalla Procura di Roma per corruzione per induzione, insieme al suo braccio destro Nello Mastursi, che lui oggi ha un po' scaricato, a Giuseppe Vetrano, organizzatore della lista Campania Libera. E la vicenda è quella della sospensione di De Luca, vi ricordate, da governatore per l'applicazione della legge Severino, perché era indagato. De Luca però avrebbe ottenuto dalla giudice Scognamiglio la sospensione della Severino e quindi la possibilità di ritornare nel suo ruolo di governatore, quindi una sentenza favorevole in cambio di favori. Ne parliamo con Sara Menafra, giornalista del Messaggero, che si sta occupando della vicenda. Sara, ci aiuti a fare un po' di chiarezza in modo proprio didascalico in questa vicenda. Ciao Sara. Ciao, partiamo dal fatto sì, che De Luca è accusato di concussione per induzione, cioè di in qualche modo di essere stato compartecipe delle pressioni che gli sarebbero arrivate dalla giudice Scognamiglio e dal suo entourage. Dalle intercettazioni che sono state depositate finora, che sono soltanto una parte, però diciamo conversazioni dirette tra De Luca e il magistrato o diciamo in cui si parli direttamente di questo non ce ne sono, né che in cui si, diciamo in generale De Luca compare pochissimo agli atti e in ogni caso mai in contatto diretto col magistrato. Anche vero, se, perdonami Sara, anche se sì, visto che sono aggiornamenti di poco fa, sono uscite delle agenzie in cui ci sarebbero delle intercettazioni ambientali in un'auto, è Manna sì, che parla, che è il marito della giudice Scognamiglio, che tra l'altro oggi è stata trasferita ed è stata aperta un'indagine su di lei, che dice, si dice deluso per la mancata nomina all'ASL, cioè esatto, no, lui voleva diventare un direttore generale dell'ASL, in cambio la moglie, la giudice, avrebbe appunto emesso una sentenza favorevole a De Luca. In questa intercettazione lui dice: io non faccio il direttore generale e va bene, però tu non farai il presidente della giunta regionale. Certo. Io perdo 5, tu perdi 100. Questo sarebbe Guglielmo Manna che si esprimeva in un'intercettazione parlando con l'avvocato Gianfranco Brancaccio tra i legali di De Luca il 20 agosto scorso, no? Sì, il problema è che questo Brancaccio non è effettivamente un avvocato, cioè la storia è sicuramente questa, cioè che Manna fa pressioni sull'entourage di De Luca per dire io posso risolvere la situazione, diciamo, tramite mia moglie, aiutarlo perché mia moglie potrebbe esprimersi in senso favorevole, in cambio voglio essere promosso, voglio avere una direzione in una ASL, lui era nell'ufficio legale dell'ospedale Santo Bono di Napoli e voleva, ma non era nemmeno il dirigente di questo ufficio, era uno diciamo, dei funzionari, e voleva fare un salto di qualità. Però diciamo, questa è sicuramente la costruzione diciamo, accusatoria. Dai primi atti che emergono, bisogna però notare che effettivamente anche quando lui racconta questa cosa, io perdo 5, tu perdi 100, non parla mai direttamente, cioè parla con avvocati che però non sono avvocati di De Luca, sono avvocati sempre del giro di Manna. Ci sono ovviamente contatti diretti fra Manna e il giro di De Luca, ma in ogni caso non si capisce fino a che punto, il punto diciamo su cui De Luca sicuramente avrà gioco a dare una sua versione dei fatti a suo favore, come lo ha detto Tommaso Pastellese, eccetera, è perché effettivamente il contatto diretto con De Luca al momento, che sarebbe poi la prova diciamo centrale, al momento non c'è. Senti, sentiamolo però, un attimo. Questo aggiutarsi di Manna, dell'entourage, che dice: dacci quello che chiediamo, in cambio mia moglie farà una sentenza favorevole. Tra l'altro vedo adesso è uscita un'agenzia, in questo momento c'è un si esprime così Anna Scognamiglio, dice: e che palle, non finisce mai, sempre la storia infinita. Questa è la giudice Anna Scognamiglio parlando col marito Guglielmo Manna a proposito dell'ordinanza sul congelamento della sospensione di Vincenzo De Luca da governatore, in una conversazione in auto intercettata il 4 settembre e finita agli atti dell'inchiesta. Certo, perché la giudice Scognamiglio si è pronunciata due volte sul caso De Luca, una a luglio con la sentenza depositata il 22 luglio, quando i consiglieri del PDL fanno nuovamente ricorso contro la decisione, la prima decisione favorevole a De Luca, l'11 luglio poi depositerà una nuova ordinanza e sempre lei ad occuparsene, appunto se ne lamenta col marito. Pare che il marito le risponde: vabbè, ma tutto sommato lei dice che è dispiaciuta, io non tanto, riferisce ai suoi amici, e sicuramente lei appunto si lamenta di questa, di avere questa incombenza, dice una storia infinita, in qualche modo si lamenta di doversene sempre occupare. Non è chiaro anche lì l'altro passaggio diciamo che bisognerà davvero dimostrare, è se lei dava informazioni al marito sapendo che il marito faceva pressioni sul gruppo di De Luca, o se semplicemente gliele dava perché appunto perché il marito, e sebbene diciamo pare che i rapporti non è chiaro quanto fossero positivi, insomma comunque gli dava, aveva detto siamo separati in casa, no? Senti Sara, esatto. Menafra, sentiamo anche un passaggio di ieri, ha parlato anche oggi De Luca, ma sentiamo quando dice che è parte lesa, poi ci spieghi perché si considera parte lesa. Io non sono a conoscenza di nulla, di nulla, di nulla. Io sono parte lesa, io e l'istituzione che rappresento. Sono parte lesa in questa vicenda. Perché dice sono parte lesa? Lui dice che è parte lesa perché in qualche modo non ha, proprio perché per quello che dicevamo prima, perché non è chiaro se lui sia stato semplicemente tirato in gioco da altri che volevano ottenere delle diciamo delle nomine da parte della Regione Campania, ma non ne sapeva nulla, e quindi in questo caso avrebbe avuto un danno d'immagine che è quello che vediamo in questi giorni, senza in realtà essere a conoscenza di nulla. Alcune intercettazioni appunto di quelle in parte che stanno uscendo sull'Anto, insomma in parte che abbiamo potuto leggere in queste ore, dicono però che alcuni di questi dicono che De Luca sapesse, sebbene non lui non è direttamente al telefono. L'altro punto debole che ha De Luca, e che dovrà in qualche modo spiegare almeno dal punto di vista politico, è che lui sa di questa vicenda dal 19 ottobre, al giorno in cui è stato perquisito e ha ricevuto diciamo l'avviso di garanzia, eppure dal 19 ottobre non fa nulla fino al 29, quando poi dice alla procura che vuole essere sentito, e ancora fino a pochi giorni fa tutto sommato il suo appunto capo di gabinetto l'aveva difeso, tanto che quando aveva detto lo sposto aveva detto che c'era un problema di incompetenza, di troppe nomine, cioè questa posizione finale ieri sono parte lese, oggi la scelta di scaricarlo definitivamente, arrivano molto tardi rispetto a quello che è accaduto in questi mesi, un periodo in cui lui sicuramente qualcosa a un certo punto lo sa perché c'era bisogno di garanzia. Non è chiaro se prima sapesse che c'erano delle pressioni e non le ha denunciate, che potrebbe essere l'ipotesi della procura è questa, che lui abbia subito in qualche modo delle pressioni, ma che non le come abbia era denunciate. Suo dovere invece non le abbia denunciate. Sara Menafra, esatto. Ti ringrazio, sei stata chiarissima, e poi ci sarà modo di ritornarci ovviamente su questa storia. Grazie Sara, buon lavoro. A voi. Ciao. Europa 24. se si va avanti con questo ritmo, con i ricollocamenti, si finisce nel 2101. Credo, Gigi Donelli, che questa frase del Presidente della Commissione Europea Juncker ci sia un po' forse il succo di questi due vertici che ci sono stati tra Malta e Bruxelles in questi giorni sull'immigrazione. Sì, una parte direi di questa storia. La parte naturalmente è la fatica del ruolo di Juncker di mediatore. Mediatore rispetto a cosa? Rispetto a quelle che sono le esigenze, lo ricordiamo sempre, l'Unione Europea è fatta da 28 stati, non dico che ci siano 28 diverse posizioni, ma sicuramente almeno 4-5 che si distribuiscono. Quindi è chiaro che se la redistribuzione, che è parte di questo accordo in cui l'Italia da una parte e la Grecia si impegnano a registrare in cambio di una redistribuzione, è così lenta, è ovvio, come dice Juncker con una battuta, ma che poi è forse anche un conteggio, si finisce nel 2100 erotti. In realtà queste giornate... A Malta e una a Bruxelles, no? C'è stato due giorni a Malta. Due giorni a Malta, di cui sostanzialmente l'incontro di Malta era legato al forum, appunto, al bilaterale tra Unione Europea e Africa. E questo era già previsto. In coda a questo è stato aggiunto un vertice informale dell'Unione Europea. Perché? Perché sostanzialmente questo accordo, questo tentativo di convincere gli stati africani a entrare a far parte di quella che vorrebbero a Bruxelles fosse la nuova strategia dell'Unione Europea, che sostanzialmente dice da una parte agli africani: vi diamo più soldi, ma cercate di frenare quelli che sono almeno una parte dei migranti economici, perché naturalmente a volte noi mischiamo i termini profughi e migranti economici. Dall'Africa spesso sono migranti economici, non a caso un'altra parte di questo accordo, di questa strategia, anzi, prevede che la Turchia invece continui e faccia ancora di più un lavoro su quelli che sono i veri e propri profughi siriani, dunque in primo luogo, ma non solamente, che passano attraverso la Turchia e poi, come sappiamo, in generale seguono quella che ormai è la nota rotta balcanica. Ecco, la strategia dell'Unione Europea che Donald Tusk, bisogna dire, persegue ormai con una certa chiarezza è lavorare su questi due aspetti e nello stesso tempo stringere le maglie. Tusk l'ha detto molto chiaramente stasera, forse varrebbe la pena di condividerlo. Abbiamo Donald Tusk, dunque il Presidente del Consiglio Europeo. Proviamo a sentirlo un momento. The European Union will stick to its international obligations in terms of asylum rights, but it must be clear that without registration there will be no rights. Quindi tu dice, penso che sia chiaro, l'Unione Europea continuerà il suo ruolo nel rispetto, nel diritto d'asilo, ma senza registrazione non ci saranno diritti. Questo è un po' l'elemento di novità. E poi insiste e dice molto chiaramente: ci vogliono dei controlli severi alle frontiere. E poi dice anche: i richiedenti asilo non possono scegliere la loro destinazione. Questo di fatto abbiamo visto nel corso dell'estate e della prima parte dell'autunno, insomma, questa grande, diciamo, corsa di molte famiglie, di migliaia di persone verso la Germania. Beh, questo è un punto che Tusk intende in qualche modo chiudere, cioè l'Unione Europea si deve dare una politica comune della migrazione e per farlo, dice, è l'Unione Europea che deve decidere dove andrai nel momento in cui tu, profugo, richiedente asilo, ottieni il riconoscimento. Ed è molto chiaro Tusk in questo punto, perché questa, se vogliamo, è la linea politica che il suo paese, la Polonia, sta perseguendo da alcuni anni. Quindi canali aperti all'interno del quale i flussi devono cercare di essere gestiti, ma al di fuori di questi flussi molta fermezza anche nei respingimenti. E naturalmente questa è la linea che attraverso la sua, diciamo, presidenza sta prendendo forza. Non necessariamente troverà, anzi non trova tutti d'accordo, però è la linea che si sta profilando. Al prossimo vertice, quindi, Gigi Donelli. Beh, allora, il prossimo vertice è già fissato, ma perché è essenziale, perché è chiaro che poi ci sono mille punti di debolezza. L'Unione Europea parla di dare praticamente meno di 2 miliardi all'Africa, no? In questo pacchetto d'aiuto, ma se pensiamo che ogni anno l'Unione Europea dà 52 miliardi per l'aiuto allo sviluppo dell'Africa, allora vediamo che forse 2 miliardi non è poi questa gran cifra. Certo, per molti paesi, se questi pacchetti, come dire, di aiuto aiuto dovessero funzionare, sarebbero i primi a rimanersene volentieri a casa propria. La Turchia è l'altra grande parte, quindi sì, è probabile che non solo presto, ma di fatto tra 10 giorni ci sarà un secondo grande incontro in cui l'Unione Europea, i 28, incontreranno la Turchia, che ha un ruolo evidentemente centrale in questa vicenda. Come dicevamo, grazie Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. Continuo le vostre riflessioni, i vostri messaggi. Vedo sulla dichiarazione di Berlusconi a proposito del pericolo che vinca il Movimento 5 Stelle in Italia. Luca dice pericoloso, e se non vincono i 5 Stelle vuol dire che l'italiano è un po' masochista. Poi invece Paolo da Udine, ma cosa pretende da uno di 80 anni col cervello bruciato dal Viagra? Berlusconi non è più credibile, il problema del centrodestra è lui. Ci lasciamo per una breve pausa di ricreazione e poi torniamo parlando del delitto di Ancona. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Torniamo insieme, Roberto Giordano con voi, voi con l'ascolto e con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia quelli inviati via sms al 349-238-6666. La domanda di questa sera era proprio delle dichiarazioni di Berlusconi sul Movimento 5 Stelle, che se vincesse con l'Italicum sarebbe un pericolo per l'Italia e gli italiani. Mimmo scrive: dovrebbero vergognarsi, parla la casta che ha affamato e depredato il paese più bello del mondo negli ultimi 50 anni, speriamo che governino i 5 Stelle. Mentre Claudio Caravano da Roma scrive: per una volta perfino Berlusconi sui 5 Stelle ha ragione. Ma tra poco dobbiamo affrontare l'argomento, il tema del delitto di Ancona. Vi ricordo però, visto che ci sia stata una pausa, per chi non avesse sentito le notizie più importanti, sono queste con a proposito della vicenda De Luca, indagato, lo sapete, per corruzione con induzione. Per induzione la giudice Scognamiglio, che lo avrebbe favorito nella sentenza, è stata trasferita, ma è giallo sulle intercettazioni di cui abbiamo parlato prima, che stanno arrivando questa sera a proposito del marito della giudice Scognamiglio. E poi un blitz antiterrorismo che è partito dall'Italia, una rete guidata dal Mullah Krakar, volevano colpire in Europa. Kamikaze in azione oggi tra l'altro a Beirut, decine di morti e l'ISIS rivendica. Poi abbiamo parlato del vertice, dei vertici che sono stati sull'immigrazione, e con il presidente della Commissione Europea Juncker, che dice: di questo passo con i ricollocamenti finiremo nel 2101. Berlusconi nel Nazareno ha detto nell'anticipazione all'intervista questa sera Porta a Porta, era previsto visto la modifica della legge Severino, quello che lo ha sospeso dalle cariche parlamentari, ma Renzi dice è una bugia, non ho mai fatto questa promessa, forse si confonde con un altro Matteo. Passiamo quindi al delitto di Ancona del 7 novembre scorso, la vicenda nella quale il 18enne Antonio Tagliata, accusato insieme alla fidanzata 16enne di aver ucciso la madre di lei e di aver ridotto in fin di vita il padre, che è ancora in condizioni gravissime. In un primo tempo si sono in qualche modo scaricati addosso vicendevolmente la responsabilità, poi gli inquirenti hanno trovato a casa del 18enne un biglietto in cui lui preventivamente aveva scritto che li aveva ammazzati. Dice: l'ho fatto, si è difeso così il giovane, ho scritto quel biglietto affinché non rischiasse di essere accusato mio padre, perché suo padre in gioventù aveva ucciso un coetaneo accusandolo di insidiare la sua fidanzata. Quali sono i sviluppi dell'inchiesta oggi? Antonio Tagliata, il 18enne, secondo, si legge nell'ordinanza della giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il suo arresto, si legge: Antonio Tagliata ha sparato alla madre della fidanzata quando la donna era già a terra, un solo colpo alla testa, una vera e propria esecuzione. Tra l'altro lui, interrogato nel carcere di Camerino, dice di non ricordare bene la sequenza dei colpi, ma adesso: ho visto fumo e ho fatto fuoco di copertura. Un po' in un linguaggio, in un gergo tra il militare e il videogame. Ne parliamo con la notissima criminologa Roberta Bruzzone. Buonasera, dottoressa. Buonasera a voi. Che idea si è fatta di questa vicenda? Man mano, ogni giorno, evidentemente da interrogatori, dalle indagini inquirenti, vengono fuori vari dettagli, no? Ma guardi, intanto partiamo da una considerazione che sicuramente è molto importante. Mm. Entrambe le misure cautelari sono state confermate, sono state convalidate. Quindi significa che la responsabilità di entrambi i ragazzi, quantomeno sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, è abbastanza chiara, almeno in questo primo momento. Del resto, insomma, la ragazzina è andata con lui dentro l'abitazione, e a questo punto, proprio non solo in virtù del messaggio trovato a casa, ma anche in virtù del fatto che questo ragazzo, ripeto, non lo dimentichiamo, si è presentato nell'abitazione dei genitori della ragazzina con una pistola peraltro assolutamente pericolosissima, con un munizionamento molto ampio, 86 proiettili, peraltro con una pistola con matricola Brasa recuperata chiaramente in maniera illegale. Quindi è anche su questo aspetto credo che gli inquirenti dovranno fare tutta una serie di valutazioni, perché sia per quanto riguarda la somma economica, sia per proprio il reperimento di quest'arma e dei caricatori, indubbiamente sarà un passaggio molto importante, perché non è da escludere che dietro questa vicenda ci possa essere una regia comunque di una figura adulta avvezza al mondo criminale, perché diventa difficile ipotizzare che un ragazzino di 18 anni da solo sia in grado comunque di recuperare materiali di questo genere con tanta facilità. Ma lei è sicuro che questo non torna? Non è possibile. Assolutamente no. Poi consideri che non è che è come andare al supermercato che c'è l'offerta a pistole e tre caricatori. Normalmente le richieste sono mirate e viene acquistato, e il costo della di quanto recuperato naturalmente è proporzionale alla merce. In questo caso è evidente che è stata richiesta un'arma con matricola Brasa e un certo tipo di munizionamento. Per cui questo è un aspetto comunque fondamentale in questa vicenda, che segna un dato fondamentale, la premeditazione, che certamente amplifica la gravità di quanto è accaduto anche sotto profilo delle possibili pene a cui vanno incontro i due ragazzi. La regia di cui parlava lei, di un adulto, di chi potrebbe essere? Di qualcuno molto vicino a questo ragazzo, insomma, voglio dire. Consideri che poi sostenere che ci fosse solo l'intenzione di un chiarimento e che non vi fosse alcuna volontà omicidiaria, diciamo, premeditata, diventa difficile, anche perché c'era già un clima di grave tensione. Non dimentichiamo che questa ragazzina nei giorni immediatamente precedenti al delitto è comunque stata una ventina di giorni a casa del fidanzato, altra circostanza che segna comunque una situazione di gravissima tensione, perché non vedo per quale altro motivo una ragazza di 16 anni debba trasferirsi temporaneamente a casa del fidanzato, addirittura con i genitori che firmano una sorta di nulla osta per far sì che possa rimanere in quel tipo di abitazione. Questo già di per sé dice che la situazione era gravissima sotto profilo della tensione. Lei, la regia, non si sente dire di quale persona potrebbe essere? La regia preferisce in questo momento? Guardi, io le sto dicendo che, voglio dire, non mi sembra difficile ipotizzare, insomma, da che parte cominciare a fare un approfondimento. Ripeto, il padre di Tagliata è comunque soggetto vicino a un certo tipo di ambienti, con importantissimi precedenti penali e con comunque frequentazione nel mondo della malavita. Quindi voglio dire, un'eredità pesante, insomma. Certamente non è un passaggio che possa essere ignorato. Bisogna capire questo ragazzo come ha fatto a trovare così facilmente una pistola, chi gli ha dato la somma per acquistarla, perché parliamo di un ragazzino comunque che era disoccupato, quindi voglio dire, tirare fuori 300-400 euro comunque per uno che non ha lavoro non è così banale, ci certo. Siamo. Quindi voglio dire, è sicuro che qualcuno gli ha dato una mano sotto questo profilo, non penso che ci possano essere dubbi, ed è qualcuno che comunque a questo punto deve essersi anche reso conto che la situazione stava precipitando, perché per un ragazzo di 18 anni che ti chiede la possibilità di reperire un'arma con tale munizionamento è evidente che ha delle idee molto chiare. Poi le affermazioni che abbiamo sentito riferire oggi, che sarebbero state in qualche modo fatte durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, che lui avrebbe visto del fumo, avrebbe fatto fuoco di copertura, questo mi dice chiaramente che parliamo con un ragazzo che indubbiamente è abituato anche a questi linguaggi, a sentir parlare sì, in questo che modo. Comunque è abituato a un codice della violenza, perché l'idea che uno a 18 anni veda del fumo, poi bisognerebbe capire, ritengo che anche questa sia una costruzione fantasiosa, glielo dico proprio spassionatamente, e per questo motivo spari senza minimamente rendersi conto di che cosa ha davanti, è qualcosa che capisce, all'esame di realtà non regge, quindi mi pare un tentativo anche abbastanza goffo di cercare di alleggerire la sua posizione, che è devastante. La ringrazio, dottoressa Bruzzone, grazie. Grazie a voi, buona serata. Viabilità. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Brevemente, è arrivata anche questa agenzia di una dichiarazione del legale della giudice Scognamiglio coinvolta nell'inchiesta su De Luca, che dice: questo legale, se quelle conversazioni, cioè le intercettazioni di cui parlavamo prima, come riportate dai giornali, non sono vere, due sono i casi: o sono state trasmesse da chi ha interessi anche politici alla diffusione di notizie false, o queste intercettazioni esistono e stanno da qualche parte. Comunque una vicenda che desta inquietudine, dice Giovan Battista Vignola, legale della giudice Scognamiglio. Le altre notizie appunto sono De Luca indagato con tutti gli avvicendamenti, gli sviluppi di cui abbiamo parlato. Terrorismo, progettava attentati in Europa la cellula jihadista sgominata dal blitz antiterrorismo partito dall'Italia. Berlusconi a Porta a Porta, Renzi ha detto mi ha tradito e dice nel patto nazareno c'era la modifica della legge Severino, ma Renzi lo smentisce, dice una barzelletta che non fa ridere, mi ha confuso con l'altro Matteo. Migranti, il presidente della Commissione Europea Juncker lancia un monito dopo i due vertici sull'immigrazione, se si continua così saranno redistribuiti a fine secolo. Il delitto di Ancona, abbiamo appena parlato con la criminologa Bruzzone, secondo la GIP contro la madre da parte del diciottenne c'è stata una vera e propria esecuzione, uccisa da un colpo alla testa quando era già per terra. L'altra notizia particolare di oggi è contenuta nei dati Istat sui matrimoni, cioè gli italiani si sposano sempre meno, lo fanno soprattutto civilmente, quindi sempre meno in chiesa. Il matrimonio dura in media 16 anni e l'età della separazione si aggira per gli uomini a 47 anni, per le donne a 44. Ne parliamo con Chiara Saraceno, notissima sociologa, si è occupata infinite volte di famiglia e di tanti altri temi. Buonasera Chiara. Buonasera. E a cosa si deve questa la paura di sposarsi, il fatto che poi separarsi diventa difficile, la crisi, oppure cambia semplicemente il modo di sentire? No, sta cambiando il modo di fare famiglia, cioè sempre più coppie prima di sposarsi convivono, ormai un matrimonio su tre è preceduto, di quelli celebrati adesso è preceduto da una convivenza, cosa che negli altri paesi ormai riguarda la stragrande maggioranza del prima messa in coppia, cioè prima si va a vivere assieme e poi eventualmente ci si sposa. In Italia questo, il fenomeno della diminuzione dei matrimoni è anche dovuto al fatto che si esce sempre più tardi dalla famiglia d'origine, quindi si mette tardi anche in coppia convivente, diciamo così, si fa anche tardi, più tardi il primo figlio, tutto molto rimandato, questo in parte anche per la crisi, però distinguerei il fenomeno della crisi che ritarda l'uscita perché ritarda l'entrata un po' più sicura nel mercato del lavoro. E l'autonomia. Così via, ma invece c'è anche il fatto che proprio la sequenza, diciamo così, della formazione della famiglia è un po' cambiata. Un tempo si sposava e quindi si andava a vivere assieme, oggi un numero crescente di coppie, quando finalmente esce dalla famiglia d'origine, piuttosto va a convivere. È ancora una minoranza, ma è una minoranza che è molto aumentata negli ultimi 10 anni. Sappiamo anche, Chiara Saraceno, poi che aumentano le separazioni, evidentemente. Ma in realtà i dati di quest'anno ci dicono che stabili sono, per quello che vale il breve periodo di un anno, sono relativamente stabili sia le separazioni che i divorzi. E oggi ancora un divorzio deve essere sempre preceduto da una separazione, quindi c'è questa complicazione della nostra del nostro diritto, ma è quello che però fanno vedere che la stabilità riguarda più il nord che il sud, cioè il nord dove ci si separa di più da parecchio tempo e lì si è stabilizzato, mentre invece l'aumento continua nel mezzogiorno, che dove i tassi sono ancora molto più bassi, però sono in aumento, quindi c'è una convergenza, diciamo, nei comportamenti nelle diverse di aree del italiano. Paese. Senti, ma la cosa più interessante è che questo dato che si arriva quasi al sorpasso dei matrimoni civili su quelli religiosi, anche qua c'è un cambio culturale forte. Sì, parte sì, anche se, come dire, il dato grande, quello che mi sembra quasi il 43% dei matrimoni civili riguarda tutti i matrimoni, quindi anche i secondi matrimoni, quelli dei divorziati in particolare, quelli per forza sono civili. Quindi questo è importante, adesso non mi ricordo esattamente il dato, ma mi sembra che attorno al 30%, 28-30% dei matrimoni e dei primi matrimoni sono civili, sì. Cosa che è una cifra in aumento, sono ancora una minoranza dei primi matrimoni, ma in aumento di nuovo soprattutto al nord, dove appunto superano il 30%, però anche nel mezzogiorno sono il 20%, quindi è un fenomeno anche questo piuttosto visibile, notevole, in alcune città, Milano, Torino, eccetera, anche i primi matrimoni superano il civili superano quelli religiosi, sì. No, è un fenomeno di, si direbbe, di secolarizzazione. Il matrimonio è sempre più considerato un fatto civile, non che non deve passare necessariamente dalla sanzione religiosa. D'altronde, diciamo, la società si è sempre costantemente evoluta, o per qualcuno evidentemente involuta, però il cambiamento c'è, costante, inevitabile. Grazie Chiara Saraceno. Prego. Buonasera. Grazie, buona serata. Ciao Chiara. Adesso invece, prima di lasciarci, brevemente, poi ci sentiamo sempre alle 22 per aggiornarci, ancora sulla pagina Facebook di Effetto Notte i vostri messaggi. Dice Federica, questo Federica dice delle cose un po' pesanti su Berlusconi, diciamo, e poi Stefano, questo è il livello della politica in Italia, non fare leggi per noi cittadini sudditi ma esclusivamente per convenienza di partito, che tristezza. Davide, sì, perché se vince il PD o Forza Italia stiamo messi meglio, questo l'avevo letto anche prima, sono talmente tanti messaggi che ogni tanto mi confondo. Cristiano, che sia orrenda è verissimo, ma altrettanto vero che ogni legge, a proposito della legge elettorale dell'Italicum, ma è vero che con ogni legge elettorale Forza Italia arriverebbe sesta ad ogni ballottaggio. Ci dobbiamo lasciare? Sì, alle 22.